Siku, Siku dici, Siku canal dici, Marco Natalino, ci siete? Perché? Natalino, buonasera. Oi, Natali, tutto il pesce ti hai mangiato? Oi, altro che pesce, mi devo andare dopo a pescare, verso le 7, vengono a pigliare. Oggi già è bello il mare, già è bello, dai, dovremmo entrare maestrale però nella tarda serata. E Marcolino, ancora dormito? Sempre addormentato sto ragazzo, non sboscia la vita, no? Sempre dormito, eh. L'accendino? No, lo stavo cercando. No, stavi cercando. Cavalcava. Il Marcolino sta cenando adesso. Pranzando? No, ehi, sono le 6. Allora sta pranzando presto oggi, di solito pranza sempre verso le 7. Allora è per quello che è tempo bello oggi. Caldo, sì. Sì, si è fatto una caldo, già fa bene. Qualche settimana ancora il tempo bello già ci sta, dai. Sì. E tu non sei andato da nessuna parte? No, sto pensando bene, chiaramente andare a pescare. Adesso però stamattina non sei uscito. Sì. Peccato, peccato, l'impianto ci picchia. Vabbè, dai, stai bene anche lì dove sei, fuori fatti due. Marcolino, ma ci sei? Non risponde. Come fa a rispondere? Ti sei sotto le coperte? Non manco che non si è addormentato con le cuffie. Ma cosa vuoi? C'è questo qui, non mi posso usare, casa è nell'ana, e oramai non possiamo fare più niente, no? È così e bisogna prenderlo così. Tu adesso stai arrivando da casa? No, sto arrivando a casa alle 2 qualcosa. Mi sono arrivato un po' più tardi perché avevo da fare un sorso, mi sono fermato un attimino. Ma no. Abbiamo finito. Lunedì abbiamo terminato. Lunedì si è chiusa la stagione. Sino al 30 sì, c'è qualcosa di movimento, ma no. Non c'è più necessità di rimanere così sino a tardi, capito, Natalino? No, il 30 chiude anche la Marinetta, il Torre Ruia, tutti gli alberghi chiudono il 30. La Fantasy addirittura ha chiuso la seconda settimana di settembre, dai. Capito? Quindi è già chiusa. Sono un 200 persone ancora lì, la rotta la Marinetta, sino al 30, poi il 1 ottobre ci sono una quarantina di colazioni e chiude l'albergo, finito. Quindi l'impianto è praticamente, non c'è più bisogno di presidiarlo. Se viene prolungato vi sarò 30, ma avevo liato un po' più di soldi, ma comunque già va bene così. Non siamo andati male quest'anno, dai. È doppio, non si è più sentito. Oh, io non l'ho né più visto né più sentito. Mi telefonavo, ma manco più telefonato. Deve essere impegnato. E cosa ci vuoi fare? Infatti avrà qualche impegno, però... Lasciamolo impegnato, meglio che sia impegnato. Marco, Marcolino, Marcolino, dove sei? Marco, Marco. Quello lì sta comprando delle cosette, sicuramente, se non c'è. Sì, io è andato a trovare la fidanzata, no, perché era preoccupato, ho capito, questi giorni che ha fatto freddo. Se sei andato lì, l'avrei presa per carità, mamma mia. Ma quando vai non la possono ricoverare da questa donna, tu? Già vedi che Antonio, abbiamo già parlato ieri con Giulio, non... io manco ci vado a vedere, perché mi ha fastidio solo a sentire parlare, figurati che uno possa vivere sotto una pensionina dell'autobus, in tutti i luoghi di viso, ma sarà, ma non ci credo, chissà se sarà vero di Diaghito. Non ci vuole andare, però c'è, fanno le cover 4, vedi che va, andrà in ambulanza, è buona la camicia di busta, se la bocciano, capito? La lea a roletto, la vede se le mani in chi viene. Perché non è giusto che rimane la vita ad un reddito, io non metto giù. Ma è un cinghiale, ha detto Marco. Marco la conosce, ha detto che è un cinghiale, è abituato al freddo e al gelo, capito? Ha detto allora che va a Babbo Natale. Ma io non la bagnato più, non possono lasciare una persona così. E cosa vuoi ti dica? Lì si tratta, mi sembra che qualcuno ci sta mangiando a me, cosa vuoi ti dica? Lo mi dai che butto. Io non so se il comune di no, il comune produttore c'è la torretta dove c'è il bar di Corso, quello dovrebbe essere il comune di Sassari, però alla fin fine non si sa chi è che la deve recuperare questa. Dove c'è messo il comune di Sassari, no? Infatti, chi non sarà il comune di Trento Anchivi? Tanto quel caseggiato del comune mi dovrebbe Ernesto, non capito? I locali sono tutti del comune di Sassari, quindi apri Andarito, dove verrà un magazzino, te rimani qua, almeno sei coperta, c'è l'acqua, c'è il bagno, c'è tutto, tiravi, binghinosa, che non sei altra. Quando sono sceso a portare l'architetto lì, sono entrati a fare un'ispezione anche da Ernesto. Pare che lo vogliono smantellare quello, vogliono buttare giù. Mi fanno da pezzi che sono caseggiato, già va un anno, capito? Sì, appunto, però lì dietro, c'è il giardinetto, dove io mi ricordo, dove scaricavano le bibite, le cose, c'è un magazzino, quindi un garage, c'è anche l'acqua, quindi volta anch'io invece sta sotto la bencerina, forse è meglio. Non so cosa dirti, va. Bisogna verificare bene cosa c'è sotto, chi è che l'ha autorizzata a rimanere lì, perché non l'aveva autorizzata. Sì, non penso proprio, l'autorizzazione non mi dà più niente. Allora, se nessuno l'ha autorizzata, quella torretta di occupazione solo pubblico, non si può stare lì, no? Chiedi lì a Marco, mai uscì, non si può stare lì. Vuoi che si prenda la responsabilità e dargli un'autorizzazione a questa a rimanere lì? Non penso più. E io tutti gli esauri di riviso. Sì, vabbè, e che vuoi dire? Marcolino, non vestia oggi, no? Siamo rovinati. Oggi è andato proprio. Oppure è andato alla Lidl, perché lui frequenta lì, a comprare le cosette, lì, qualche cosetta. Sì, un po' di caramelle, due cingome, due gigioli. Come sto? Sì, mamma mia, come sto? Comunque c'è fresco, un po' di portati giù un botto, perché... mare non aveva l'arietta fresca, no? 19 gradi ci sono qua in stanza, neanche 20 gradi. Qua 20. E qua 19. Ti faccio la maglietta, però sono senza aperta. Speriamo che rimanga così, che non scenda più freddo. Stamattina aveva una iatta allucinante, lì sì, un'umidità micidiale, sembra che aveva piovuto. Figura, zitto, che è un altro cane quello lì, non è un ladro. Oh. E oggi, furto, Bageni. E allora? Sicuro si intende di cani a Baggia. Mi domando i sogni ancora, mi fa un po' la... Allora, a mangiare alle 6:30 e poi alle 7:30, 8:20 l'ho porto. Ti dà ancora il mondo dei sogni. Ui, ui, ui. Chi scara c'ha fatto l'America anche io? Sì, non si può, va tre postazioni, ecco. Lettino, Brandina, Tirucchi. E poi giù lo stesso. Non c'è il sole, brassi con il calino, il sole. Io manco la bronza, la zoaga. Soffre il caldo, però le piace stare al sole traiato, ma poi ne entra tutto alla canendi e si blocca l'ovrecco. Non capisco il perché, davvero. Sicuramente si vuole abbronzare. E allora? Che si ritrai al sole, non all'ombra. Va a cercarsi l'anguino del sole, Gurugabu, e si drommi chi? All'ingavura. A voi ne entra tutto molto. Non la fate mai respirare. Oh, claro, devo chiudere, sono venuti a pigliarmi, dai, ci sentiamo. Ciao Natalì, ci sentiamo. Buona serata. Cioè, fra tu. E io. Guarda come sta uscendo questo 4:40. Benissimo, Roberto. Perché problemi ha avuto? Questo è quello che ho fatto riparare. Oh. Tu le usi poco quella radio. Io anche mi ero tutta 2 settimane che sto usando il baracchino. Adesso oggi sto usando nuovamente questo. Ogni tanto bisogna farlo andare, sennò oiaia. Questo è il 4:40, no? Sì, questo è sempre quello che ho io, sempre quello mio. Il vecchia ratta. E il tuo cosa ha avuto? È sempre quel problema dei puntini, me l'ha sistemato un amico, ce la conosci anche tu. Se te l'ha sistemato lui, stai pur certo che funziona bene. Tranquillo che funziona bene. Io ho una radio riparata da lui da un bel po', il 275H, che non si è più bloccato, non si è più fermato. Già sa dove mettere le mani. Sì, no, niente da dire. Ok. Il livello microfonico come va bene qua? Sì, come sempre, Robè, ti ascolto come sempre. Segnale fondo scala, lo ti ascolto come sempre. E anche tu sei 960 qua da questa parte. E tu sei sul DB del 60. Anche di più. Ok. No. E poi il difetto del 4:40 è quello. Rispetto agli altri, al 4:30, i due piccoli, sia 80 e 140, il 4:40 c'è quel difetto lì, non c'è niente da fare, si abbassano le tensioni, i condensatori che vanno in perdita, capito? I WC e tutte le cose, insomma, è molto delicato il 4:40, io non ne avevo più preso, poi è capitata un'occasione, ne avevo ritirato uno, me lo sono tenuto ed eccolo qua. Fortunatamente ancora sta funzionando, però. Quando si vede, ma ti lampemmo, Roberto. Sì, vabbè, c'è anche il 140. Il 140 ogni tanto lo accendo, però grazie a Dio quello non ha mai dato né problemi. No, il 140, guarda, a me il problema ne ha dato poco. Ma anche il 430, è che il mio l'ha riparato la stessa persona che l'ha riparato a te un sacco di volte, ha preso in mano un sacco di volte, mi aveva cambiato il frequenzimetro, ma me l'aveva già detto, cioè non viene più di radio. Prima o poi ti lascia a piedi, capito? Perché è proprio vecchio, la componentistica è molto vecchia, capito? Però già sta andando anche quello, ogni tanto fai capire. capricci, poi ci riprende, fa capricci e ci riprende. E tira campana, radio vecchia solo, beh. Lo so, di la cosa, il 60 stai utilizzando? Sì, sì, sì, sempre l'MC60, ne ho due, uno sul 430 e uno sul 440. C'era quel MC50, te l'ho detto dopo, però sta parlando 50 euro o 60 euro, boh. Sì, ma cosa ne fai dell'MC50? Non è preamplificato, c'è da farle, vedi, quella persona lì ne ha volato uno io e si è fatto un circuitino di preamplificazione. Allora va bene, capito? Però se uno non lo sa fare è inutile di rubiglia, io non ne facevo niente, era praticamente il microfono della linea del 780, capito? Del TS780, il VU base, VHF, prima del 790, e c'è l'MC50, capito? C'è l'MC50 come microfono e poi gli ho messo l'MC60. Va bene, va bene. Per il resto tutto ok? Sì, già non ci lamentiamo, dai. Già sta andando avanti tutto. L'MC85 già era... Tu ne avevi uno di 85, è che c'ho solo 60. Se avessi avuto un altro 60, un 85 a scambio l'avrei preso. Sì, una cosa allucinante. Tu poi mi dici che non te l'ho detto, come la storia del 940. Ce l'avevo io l'85. Ce l'avevo io l'85. Ho fatto scambio con un 60. Capito? Perché l'85 a me spinge troppo la modulazione. Mi spinge un casino, volevo tenere quasi a zero e allora ho fatto cambio con un MC60 quest'estate. L'avevo anche detto, Robbe, ce l'hai un MC60, ti do l'85. No, ne ho uno solo, mai detto. Ti stai rincoglionendo forte, mi c'era tuo fratello davanti. No, ti ho detto che se ne avessi avuto uno in più di MC60 me l'avrei preso un MC85. Già me lo ricordo che me l'hai detto, però tu mi hai detto dammi il tuo 60 e io ti do l'85. Però ho detto un 60 ne ho uno solo, se ne avessi avuto due, uno te l'avrei dato subito, perché è un apparecchio, un microfono che mi piace, l'85 a me. Sì, sì, ce l'avevo, era proprio quello che mi ha dato, avevo Fabrizio, mi sembra, me l'aveva dato proprio lui, me l'ha dato proprio lui, è un uomo nuovo, entro la scatola. Usavo, capito, perché mi comprimeva troppo la modulazione, io già ho una modulazione molto alta e quindi il 60 mettendo il coso lì, il, ma anziché 50, 500 me la smorta un po', se no me la farebbe troppo forte, capito, e quindi avevo fatto cambio con un radioamatore di Sassari. E se non te l'avrei dato, figurati, io già me ne faccio, era dentro l'armadio, non lo usavo. Capace c'era qualcuno parlando, avanti che vuole entrare su 10, forse c'era qualcuno tra di loro, stavano parlando. Io rimango qualche minuto che sto aspettando gente a casa, finché non arrivano possiamo chiacchierare se ti fa piacere. E ci mancherebbe altro, Robè. Può passare per vedere, per farti vedere quella cappotta. E ma la mettiamo in mezzo la 600, così è finita e se la biglia luce. Sì, e poi già ci mettiamo d'accordo, già non ci sono problemi, già lo sai. Ok, non c'è nessuno su questo canale, solo tu o come eri in ascolto, c'è entrato qualcuno? Ma la verità io sto ascoltando in 40 metri a 7119. C'era il volume basso, qua ho visto la portante a fondo scala, ho detto o è Antonello o è Roberto, pensavo più Antonello che tu, perché da te, con te era tanto che non ci sentiamo, e ho sollevato il volume e ti ho risposto. Sì, ok, infatti anche te la tua l'ho riconosciuta subito, come ho visto, ho provato a accendere, ho fatto un paio di colpi di portante, poi ho visto che tu hai dato la portante, ho detto chi sei Claudio sicuramente, da Rosbrock si intende. Sì, beh io e tu e Antonello abbiamo quei segnali lì. Capito? E quindi ti ho detto Antonello e Roberto, altri non entrano, cioè già ce ne sono un segnale furto, ma non entrano mai. E vabbè. Niente, io lavoro, sto uscendo presto adesso, mi sono riposato, proprio mi sono seduto qua, stavo un po' ascoltando in 40 metri. E nulla, adesso inizia a essere monotono, mi dobbè. Mamma mia, le giornate si accorciano, che palle. Io gli sono fatto andare a fare un giro a Platamona, ogni desolazione, mamma mia, ma riviene tutto. Anche se sono sicuro che il caldo ritorna, almeno hanno detto così. Guarda, vabbè, io dovrei avere una decina di giorni, me li prendo a ottobre, perché a settembre ho potuto fare solo una settimana, da lunedì a venerdì, per motivi appunto di lavoro, però ottobre me la faccio una decina di giorni, se il tempo è bello mi fa piacere, se no se la biglia è lucido, beh, ma almeno stacca un po' la spina. E io, ok. Ma tu turni di notte non te ne capita di fare? No, quando ero con quella persona che tu conosci, con Antonio, altro un coreale, allora facevamo i turni. È meglio così, dai, ci manca solo che ti facciamo fare la notte, se no ti scopri. Guarda, io c'ho mio cognato, già lo conosci, Giulio, lui fa i turni di notte dalle 8 del mattino alle 8 di sera, oppure dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Oggi ne arrivi della pizzi, distrutto, perché poi ti capitano con interventi fastidiosi, che non dormi la notte, che stai sempre fuori, che poi non è che poi arrivi a casa e poi ti addormenti, era distrutto. No. È bruttissimo, perché poi io quando rientravo alle 6, capito, facevo dalle 10 alle 6 del mattino, e quando rientravo non riuscivo a dormire, quindi stavo male. Ero riuscito a farmi mettere giornaliero, quindi facevo dalle 8 alle 2, quando ero all'impianto di potabilizzazione. Poi è capitato che è mancato del personale in depurazione e Antonio mi ha detto se volevo andare, insomma, e ci sono dal 96 in depurazione, quindi oramai faccio il mio turno dalle 7 alle 2 e basta, ho finito. E arriva la cosa, ma hanno diminuito la pressione dell'acqua per caso? Ma so che ci sono dei lavori in corso proprio nella zona nostra, ma non che non abbiano strozzato leggermente da Monte Oro per via Milano. Sai dove? Lì in via degli astronauti c'era una spesa grossa. Ma perché vedo che a casa c'è meno pressione rispetto, vabbè, forse stanno riservando perché c'era OK, forse per ridurre le quantità. No, ma c'è proprio una, ho visto c'è l'officina turitana, infatti quando sono passato mi sono fermato a salutarli. Proprio lì in via degli astronauti c'è lo scavatore, stava scavando, faceva sta riparazione, può darsi per fare prima, no, strozzato un po' da Monte Oro per via Milano, perché con via astronauti è servita la via Milano, capito, a quel serbatoio lì. E quindi può darsi pure che si è abbassata la pressione anche a noi. Non ti sei accorto? Vabbè, tu c'hai l'autoclave a casa tua. No, io parlo di diretta, di acqua diretta, non di autoclave. No, beh, l'acqua diretta non me ne accorgo io se si è abbassata, perché devo scendere giù, aprire il vascone in ingresso e guardare se sta arrivando a pressione, se sta arrivando piano piano. A casa è sempre uguale, perché c'è l'autoclave, quindi entra in pressione, no, non me ne accorgo. Sì, lo so, infatti voi siete in alto. Ehi, dove stavi andando? Allora, io ho lavorato sabato, mi pare. Allora, sabato ci siamo incrociati, tu eri col camper, ti ho anche suonato, però ero con la furgonetta, non mi hai visto. Sabato mattina mi pare. Quindi sei passato davanti alle Magnolie, alla pizzeria ristorante Le Magnolie lì, che poi arrivi all'incrocio, giri a sinistra per andare a Castel Sarlo. Sì, sono andato a Palau e poi domani sono andato alla Maddalena, era la moto che non ci andavo, ho dormito a Palau e poi ho preso, vabbè, la notte in faccia, mamma mia. A Palau la notte ha piovuto, ma ormai non ci siamo bagnati per una mezz'oretta, ma era un bel temporale forte. Poi anche la notte, vabbè, nel campo non me ne sono accorto, e poi domani mattina sono andato alla Maddalena col traghetto e ho... lì c'era un ventaccio, giornata un po' luminosa, però c'era un vento di maestrale da paura. Infatti ho lavorato male, io ne sono rientrato presto, perché praticamente c'era un bel di vento, un bel di maestrale, quindi ho fatto i controlli lì alla Marinella, Isola Rossa, i punti più strategici, e poi me ne sono rientrato. Quando stavo rientrando, prima di girare lì, ho girato veramente io per andare all'impianto di Sorso, che si trova proprio vicino lì al ristorante pizzeria Le Magnoli, era una traversa prima, e tu mi sei passato, ti ho riconosciuto col camper, ti ho suonato, ma evidentemente non ti sei accorto. No, non ti ho visto, sono già lo stesso, ti ho salutato. Oh, però qua io ti devo lasciare adesso che arrivi la gente. Dai, ti saluto, grazie della compagnia, avremo modo di sentirci. Ciao. Ciao Ron, un abbraccio, a presto, ciao.